è l'Italia che va con le sue macchinine brum brum. Ma quanto ci costa sta benzina? Più della metà va in tasse che paghiamo da oltre 70 anni. È un mondo difficile e vita intensa. La prima accisa fu voluta nel 1935 da Mussolini per la guerra d'Abissinia. Anche noi andiamo a quel paese. E io vado! E io vado!